Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. All'indomani dell'uccisione di Monsignor Luigi Padovese e del discorso pronunciato da Benedetto XVI durante il recente viaggio pastorale a Cipro, Giuliano Ferrara critica l'atteggiamento troppo remissivo della Chiesa di fronte all'ennesimo attacco. Quando il Papa fu aggredito per il discorso di Ratisbona, per quel passaggio di elementare buonsenso storico e teologico sul nesso tra fede e conversione forzata nella religione maomettana, e nessuno lo difese come si doveva, e il Vaticano si impegolò in gesti di scuse e di correzione non persuasivi, perché insinceri, mentre i fanatici islamisti chiamavano a raccolta folle vocianti, una suora veniva assassinata e altri delitti venivano compiuti in nome dell'intolleranza in ogni parte del mondo, ebbi un brivido di paura e un senso di rivolta. Altro che gaffe. Era stata detta una profonda verità, anzi il fondo della verità era stato toccato nel cuore dell'Europa cristiana, a pochi anni dall'11 settembre, e subito la verità era stata sepolta in nome della diplomazia, mentre la strada islamica e araba gridava alta e forte la sua intollerante menzogna, ingaggiava e vinceva la sua ennesima violenta battaglia. Quando uccisero Don Andrea Santoro, fu impressionato dalla bambagia diplomatica che avvolse da subito quella morte solitaria e triste a Trebisonda, provocata da un fanatico islamista subito dichiarato pazzo. E poi fu la volta di un'umiliante gestione protocollare del viaggio di Benedetto in Turchia. Ora quei sentimenti ritornano dopo che un vescovo, e che vescovo, Luigi Padovese, capo della Chiesa Cattolica in Turchia, vicario apostolico della terra di San Paolo, è stato a sua volta ucciso da un giovane musulmano, suo collaboratore, alla vigilia del suo viaggio a Cipro, per incontrare il Papa con gli ortodossi e gli islamici che sull'isola convivono in condizioni di tregua belligerante da molti decenni. Ma questi sentimenti rapsodici diventano adesso una specie di disdetta, quasi uno stordimento, per la condizione drammaticamente insufficiente della Chiesa Cattolica nel mondo che la circonda e la assedia. Il viaggio a Cipro, come era diplomaticamente doveroso, è stato tutto un inno al dialogo interreligioso e va bene. Il Papa ha detto cose molto forti sul piano teologico e spirituale e contatto ha eluso come doveva la questione spinosa e luttuosa dell'ombra che l'assassinio di Padovese proiettava sulla trasferta cipriota e sul prossimo sinodo medio orientale. Il Papa ha parlato dell'immensa pazienza necessaria con parole buone e belle. E si capisce anche come si dovesse in certa misura dare un'interpretazione in tonalità minore del delitto, facendone quasi un incidente, un caso isolato, personale e non significativo. E però era forse necessario uno stile che non ho visto da parte del grande corpo della Chiesa. Ma è appena ovvio che la Chiesa doveva trovare altrove il modo di compensare i doveri protocollari di un viaggio così delicato del Papa, tenendo la testa alta, dando al contesto turco e islamico dei ripetuti delitti anticristiani il suo valore, trovando un pulpito da cui dire la verità, trovando le parole per dirla e l'autorità significativa capace di esporla con pacata fermezza, ma irrefutabilmente. E se non sia questione di parole, che sia almeno questione di preghiera, che ci sia una risposta liturgicamente accettabile, una seria e decisiva presa di coscienza della gravità della situazione, delle minacce, degli orrori che circondano la condizione cristiana nel mondo musulmano. Che so, uno sciopero del silenzio, le campane mute, qualcosa comunque capace di rendere evidente simbolicamente quel che rischia di scomparire, come intuizione, dal cuore e dalla testa dei cristiani. Che la catena di violenza contro cattolici, protestanti, ortodossi in Turchia e nel Medio Oriente non è una serie di incidenti, ma uno stato delle cose da correggere a ogni costo, battendosi. Battendosi e sapendo che le origini dell'intolleranza sono profonde, sono iscritte nella condizione spirituale e di civiltà del mondo musulmano. L'impressione è che la Chiesa Cattolica, dopo almeno due decenni di resistenza e contrattacco, che hanno raddrizzato le conseguenze più negative del Concilio, inteso come grande equivoco sulla modernizzazione del tempo storico, stia secolarizzando tutto quel che resta della sua identità particolare e libera. Prima la legge canonica e l'intimità paterna dell'autorità vescovile e sacerdotale, travolte dalla trasparenza e dalla tolleranza zero, sotto l'offensiva del mondo contro il clero, calunniato in modo incalzante e generico come responsabile di abusi carnali sui minori. Ora, l'irenismo da flottiglia bot sparso a piene mani sul sacrificio e il martirio dei figli della Chiesa, disconosciuti per l'assenza della loro testimonianza a causa dei doveri istituzionali e diplomatici. Se avete dubbi, guardatevi le parole di Monsignor Padovese sulla condizione dei cristiani nel mondo islamico, pronunciate in diverse occasioni e riproposte da Sandro Magister nel suo blog Settimo Cielo. Faceva impressione leggere i giudizi drammatici di Padovese, francescano e patrologo, innamorato della Turchia e genuino missionario in terre difficili, sull'Islam e la condizione penosa della libertà di coscienza e religiosa al suo interno. Impressionante leggere questa testimonianza colta, equilibrata, intelligente sulla violenza di un credo religioso in guerra da secoli con i cristiani e leggerla in mezzo agli eufemismi e alle edulcorazioni che hanno circondato la sua morte. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Giuliano Ferrara «La Chiesa dica che quel vescovo non è morto per accidente» dal Foglio del 7 giugno. In un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera, Pierluigi Battista interviene sul rapporto tra pacifisti e antisemitismo. Ma un pacifista vero e serio, un pacifista che non ne può più della guerra infinita in Medio Oriente, un pacifista sinceramente indignato per la folle brutalità con cui i commandos israeliani hanno ucciso 9 persone, un pacifista così deve per forza sopportare che quelli della nave per Gaza debbano assiduamente scrivere per un sito in cui si insulta l'ebreo De Benedetti? In cui l'invettiva più frequentata per colpire alle mano e fini è niente meno che neo-rabbini? In cui hanno grande visibilità collaboratori della radio iraniana di Stato IRIB, famosa per far da megafono delle imposture di Ahmadinejad sulla menzogna dell'Olocausto? Un vero e serio pacifista può accettare mescolanze e confusioni con antisemiti espliciti e recidivi? Pensa veramente che sia solo propaganda israeliana e non invece documentata incontrovertibile certezza la deriva antiebraica in cui una parte, diciamo così, una parte del movimento filo-palestinese ripetutamente e sistematicamente precipita? Non potrebbe ribellarsi il serio e vero pacifista e allontanarsi inorridito quando altri personaggi che si fregiano dell'appellativo pacifista assediano il ghetto romano, berciano slogan contro gli ebrei, urlano fascisti e assassini ai figli di chi ha subito la deportazione del 16 ottobre del 43? Qualche primo segnale di insofferenza si manifesta, finalmente. Il fiorentino Mariano Mingarelli si è dimesso dall'agenzia filo-palestinese Infopal perché è disgustato dalla presenza di antisemiti che non usano più nemmeno l'accorgimento antisionista per dar sfogo alla loro ostilità per gli ebrei. Su Liberazione, Guido Caldiron, sia pure con qualche remora ideologica di troppo, denuncia che troppi venti di guerra attraversano le manifestazioni pacifiste. Ma non basta. O deve essere solo l'inizio. L'inizio di una sana ribellione in cui i pacifisti convinti dovrebbero dichiarare di rompere ogni rapporto con chi non sa o non vuole più distinguere tra la critica allo Stato di Israele e l'esaltazione dei protocolli dei savi anziani di Sion, di cui rigurgitano alcuni anti-israeliani. Altro che pacifismo, è solo immondizia. Se hanno delle buone ragioni da difendere, i pacifisti si liberino di questi antisemiti compulsivi, non mischino le loro bandiere arcobaleno con i paladini della predicazione antisemita. Si rendano conto che tra i militanti della nave assaltata dai commandos israeliani c'erano fanatici turchi che glorificavano apertamente il martirio dei kamikaze che si fanno esplodere a Gerusalemme o Tel Aviv e che durante la traversata invocavano nelle loro canzoni una nuova Kaibar, il villaggio ebraico sterminato nel 628 dai musulmani. Il pacifismo non c'entra niente. Si separino dagli antisemiti, i pacifisti autentici, se vogliono riguadagnarsi un minimo di credibilità. attacchino con tutti gli argomenti che hanno l'esercito dello Stato di Israele, ma mandino via gli odiatori degli ebrei. Non sono compagni che sbagliano, ma gente che fa schifo. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista Quando il pacifista diventa antisemita, dal Corriere della Sera del 7 giugno. Letture di Radio 24. Mary è una ex terrorista che, dopo aver perso il figlio che aspettava dal leader del gruppo terroristico di cui faceva parte, si traveste da infermiera per rapire un bimbo di poche ore e portarlo al suo ex compagno. È la trama di Mary Terror, un romanzo scritto nel 1990 da Robert McCammon, tornato di attualità dopo il drammatico rapimento avvenuto nei giorni scorsi a Nocera Inferiore. Lord Jack voleva un bambino, un figlio maschio. Le aveva donato un bambino e lei lo aveva perduto. Se non si fosse presentata a Lord Jack con un bambino, lui l'avrebbe respinta. Era quello il significato del sogno, ma il bambino di Jack era morto. Lei si era sbarazzata del feto nel bagno di una stazione di servizio vicino a Baltimora, con la pancia squarciata da vetro e metallo. Aveva avvolto il piccolo fagotto di tessuti in un ammasso di carta igienica e l'aveva gettato nello scarico. Era un maschietto, era ciò che Jack aveva sperato di avere. Un maschio, che avrebbe procrastinato il suo seme. Ma come poteva andare da Jack con suo figlio quando il piccolo era morto e lo sciacquone se lo era risucchiato via? Mary si sedette sul letto con la pistola ancora stretta in mano e assunse la posa del pensatore. E se avesse avuto davvero un bambino da portare a Jack? Un bambino vero, carne, ossa e sangue. Si alzò e cominciò a fare avanti e indietro per la stanza con la Colt sempre in mano. Un bambino vero. Dove poteva trovarne uno? Si immaginò di presentarsi a un'agenzia per le adozioni per compilare i relativi moduli di richiesta. «Sono un'assassina, ho ucciso 6 persone», avrebbe detto. «Ho ucciso un avvocato, 2 uomini d'affari e un giudice del New Jersey. Ho ucciso anche un ragazzino che cacciava in un bosco. Ma certo che voglio un bel maschietto, certo che lo voglio». Oh, non avrebbe funzionato. In quale altro posto era possibile procurarsi un bambino? Si fermò a pensare. Ci si poteva procurare un bambino alla fonte, là dove le madri li mettono al mondo. In ospedale. Certo, pensò con sarcasmo. Come no? Basta entrare, chiedere del reparto maternità, sparare qualche colpo e prelevare un bambino dalla culla. Un momento. Sono state infermiere in Vietnam. Non era vero, naturalmente. Era un trucchetto che usava spesso e con i poliziotti funzionava sempre. Non appena tirava fuori la storiella del Vietnam, gli sbirri si bevevano qualsiasi frottola. Riprese a fare avanti e indietro. Un'infermiera. Un'infermiera. C'erano negozi che affittavano costumi da infermiera. Sì, però tutte le infermiere di un ospedale indossano la stessa uniforme. O no? Non lo sapeva. Se davvero voleva percorrere quella strada, doveva per prima cosa andare in un ospedale e controllare quel dettaglio. Prese l'elenco del telefono e lo aprì alla voce ospedali. Ce n'erano molti, contando anche le cliniche private. C'era una clinica vicino Mableton. Mary decise che non era abbastanza grande. C'era un ospedale, l'Atlanta West, a 2 o 3 chilometri di distanza. Quello poteva andare bene, pensò Mary. Ma poi l'occhio le cadde su di un altro della lista ed esclamò: «Eccolo!» Era il St. James. Un presagio di karma positivo, si disse. Un ospedale che portava lo stesso nome di Jim Morrison. Controllò l'indirizzo. Il St. James si trovava a Buckhead, un quartiere bene della città. Da casa sua era abbastanza lontano, ma pensò che la cosa sarebbe potuta tornare a suo vantaggio. Laggiù nessuno l'avrebbe potuta riconoscere. I ricchi non mangiano hamburger da Burger King. Prese una penna e tracciò un cerchio intorno all'indirizzo del St. James. Aveva in bocca un sapore metallico, il gusto del pericolo. Era come quando preparavano un piano, ai vecchi tempi. E il pensiero di portar via un bambino dal St. James, il bambino di qualche maledetta ricastra, rendeva quel sapore ancora più dolce. Ma non sapeva se la cosa fosse fattibile o meno. Prima doveva compiere un sopralluogo al reparto maternità, controllare i sistemi di sicurezza, dove fossero le scale, dove fosse la sala infermiere rispetto alle uscite. Doveva scoprire quante infermiere lavorassero nel reparto e soprattutto vedere che uniformi indossassero. E poi c'erano sicuramente altri accorgimenti ai quali non aveva ancora pensato e dei quali si sarebbe fatta un'idea solo una volta sul posto, dopo aver perlustrato il reparto coi propri occhi. Se non avesse funzionato lì, avrebbe trovato qualche altro posto, decise. Non sarebbe stato il figlio di Jack. Il figlio di Jack era morto. Ma se lei si fosse presentata a Jack con l'offerta di un nuovo bambino, non sarebbe stato altrettanto appagato? Ancora più appagato, pensò Mary. Gli avrebbe detto che il feto morto nel suo ventre squarciato era di una femmina. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal romanzo di Robert McCammon, Mary Terror, Gargoyle Editore, 410 pagine, 16 euro. In Germania un'azienda deve attendere mediamente 36 giorni per ricevere il pagamento di una fornitura da parte della pubblica amministrazione. In Norvegia ne bastano 30. In Italia, invece, ci vogliono 186 giorni. Non c'è da meravigliarsi che molte imprese che lavorano con il pubblico siano a loro volta inadempienti. Sarà la crisi che continua a imperversare? Oppure il cattivo esempio che viene dalla nostra pubblica amministrazione? O la ormai proverbiale lentezza della giustizia civile? Sarà magari il combinato disposto di tutte queste cose. Fatto sta che i tempi di pagamento nei confronti delle imprese fornitrici, già biblici, si sono allungati ancora. Ormai si è passati dagli 88 giorni del 2009 ai 96 giorni di quest'anno, secondo il calcolo fatto dall'Ufficio Studi di Confartigianato utilizzando i dati Intrum Justitia. E questo si badi bene, per i soli rapporti fra imprese private. Quando invece il cliente è la pubblica amministrazione, si va alle calende greche. I tempi medi di pagamento avrebbero raggiunto in questo caso 186 giorni, contro i 128 dello scorso anno. Il ritardo si sarebbe ampliato ancora di quasi 2 mesi, 58 giorni, a fronte di una media europea invece ridotta a 4 giorni, essendo scesa da 67 a 63 giorni. Impietoso è il confronto con alcuni paesi dell'Unione. In Germania la pubblica amministrazione paga mediamente in 36 giorni, impiegando a far fronte ai propri impegni soltanto un giorno in più rispetto a qualsiasi privato. In Norvegia ci mette invece 30 giorni esatti, lo stesso tempo che dovrebbe essere previsto dalle direttive europee. In Finlandia non soltanto lo Stato paga in neppure un mese, 24 giorni per la precisione, ma regola le pendenze con i fornitori più rapidamente delle stesse imprese private, 27 giorni in media. Non serve davvero altra spiegazione per capire come abbia fatto la nostra pubblica amministrazione ad accumulare un debito di almeno 60 miliardi di euro nei confronti dei propri fornitori. Una massa di denaro che incombe come un macigno sui conti pubblici, al punto da aver indotto il governo italiano ad assumere, al di là delle prese di posizione ufficiali, un atteggiamento palesemente ostruzionistico verso la proposta di Bruxelles di imporre il limite tassativo di un mese per i pagamenti. Limite, va detto con chiarezza, che in Italia sarebbe irrealistico applicare anche ai rapporti fra imprese private, visto che oggi anche lì i tempi medi sono 3 volte superiori. E se l'esempio che viene dai clienti pubblici non è certamente dei migliori, nemmeno la lentezza della giustizia civile, secondo la Confartigianato, incoraggia i debitori a onorare in tempi decenti gli impegni assunti. Per far rispettare un contratto davanti a un giudice, qui servono mediamente 1200 giorni, contro i 515 della Spagna, i 399 del Regno Unito, 394 della Germania e i 331 della Francia, rispetto alla media dei paesi OCSE, che è pari a 462 giorni. Ce ne vogliono da noi 748 in più. Nessuno stupore, perciò, che utilizzando i parametri della Banca Mondiale, l'Italia si collochi per l'efficienza della giustizia civile al posto numero 170, di una graduatoria che comprende 183 paesi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Sergio Rizzo, fornitore del pubblico, pagato dopo 186 giorni, dal Corriere della Sera dell'8 giugno.